Codice sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Benvenuti, questa è la prima puntata di Codice Sorgente, un programma che inizia con molte domande. Cercheremo nel corso di queste 5 puntate, in questi fine settimana, il sabato alle 16, domenica alle 10, cercheremo in questi fine settimana di trovare risposte alle molte domande che ci facciamo. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Simone Spezia. Ciao Enrico, buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori. Il tema è esattamente quello che un po' sta attraversando il mondo in questo periodo. Abbiamo avuto una grande discussione qualche anno fa sul tema dei big data, di queste grandi masse di dati che tutti quanti stiamo producendo. Giusto per darti un'idea, una misura, secondo alcuni calcoli nel 2017 verranno prodotti più dati nel solo 2017 che nei 5.000 anni di storia dell'umanità. Il problema è che cosa farne, se si considera che noi singolarmente, ogni singola persona, un utente digitale medio, secondo l'IBM, produce 0,77 giga ogni giorno di dati. Il problema è cosa farne, come analizzarli, cosa tirarne fuori e come sfruttarli. Sì, i dati sicuramente sono uno degli acceleratori e forse, poi lo sentiremo anche dai nostri ospiti, l'acceleratore principale di molte cose che stanno accadendo. Ci sono vari ingredienti e, come avete sentito, il sottotitolo della nostra trasmissione è come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro, e potremmo dire che i dati sono il colore principale che serve per disegnare questo futuro. Allora, per capire come questo futuro sarà, nel corso di questa settimana avremo alcuni ospiti che ci aiuteranno a rispondere alle tante domande. Ad esempio, è vero, come sostengono alcuni, che le macchine si stanno preparando a rubarci posti di lavoro, ma in grandissima quantità, e ancora oggi non abbiamo visto nulla? Questa è una delle grandi domande, perché non è una domanda solo tecnologica, è una domanda sociale che ha un impatto dai lavori più umili ai lavori concettualmente più complessi. Quando parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di macchine che potenzialmente potranno sostituire anche tanti professionisti. Sì, da questo punto di vista, se vogliamo, c'è stata una sorta di misunderstanding, un errore linguistico per certi versi, perché si è iniziato a ragionare su tutto questo dicendo le macchine, i robot ci ruberanno il lavoro. In realtà, quando parliamo di robot e quando parliamo di macchine, generalmente parliamo più spesso di algoritmi, che sono set di istruzioni che vengono dati ai computer, e questo set di istruzioni può servire a qualsiasi cosa. Può servire, per esempio, c'era un articolo qualche giorno fa che raccontava come è stato lanciato un servizio legale negli Stati Uniti che riguarda le multe, per il quale una macchina, sostanzialmente in una macchina tu inserisci su internet la tua domanda, quello che ti è successo, se ritieni di aver avuto una multa ingiusta, e la macchina ti produce una lettera destinata all'amministrazione alla quale devi mandare questa lettera, perfettamente compilata con i dati della tua macchina, e che ti aiuta a contestare la multa. E questo evidentemente è un avvocato in meno. Esatto, un avvocato digitale in più e un avvocato in carne ed ossa in meno. Ma iniziamo con un po' di musica, un pizzico di musica. Alcuni di voi sentiranno una musica dal sapore noto. Nel 1843 Ada Lovelace, una matematica inglese nota per aver creato quello che è considerato il primo algoritmo, nota tra gli esperti ovviamente, faceva una previsione, immaginando che un giorno una macchina sarebbe stata in grado di comporre un brano musicale. E ci siamo arrivati, perché quello che stiamo ascoltando è una canzone creata da un computer del Centro Ricerche Sony di Parigi nel settembre dello scorso anno, quindi pochi mesi fa, intitolata Daddy's Car. Abbiamo fatto anche una prova con Shazam e la riconosce, e l'autore è Artificial Intelligence. Sì. Allora, grazie all'intelligenza artificiale, Flow Machines, che è questo sistema creato dalla Sony, ha ascoltato 45 brani dei Beatles, quindi neanche tantissimi, a proposito di dati, ha acquisito dati, ha imparato, e con lo stesso stile ha ha creato una nuova canzone, che è quella che stiamo ascoltando. Certo, perché non è un tema di quantità dei dati, ma qualità dei dati. Nel qual caso la musica dei Beatles è evidentemente di ottima qualità e bastano 45 canzoni. Poi, ovviamente, le macchine possono anche sbagliare. 1, 2, 3, 4. Sorry, my mistake. Let's start again. 1, 2, 3, 4. Questo è lo stesso algoritmo che in realtà aiuta un musicista a comporre la sua canzone. È proprio lo stesso che ha composto la canzone dei Beatles, che è di supporto ai musicisti. Un'interazione uomo-macchina nel quale in questo caso evidentemente la macchina sbaglia. E se la macchina sbaglia vuol dire che è molto vicina all'umano, no? Poi, sì, ovviamente è uno preoccupante. Esatto, forse. Uno dovrebbe dire, ma le macchine non dovrebbero sbagliare. Vedremo. Professoressa Paola Velardi insegna Computer Science, benvenuta a Codice Sorgente su Radio 24. Buongiorno professoressa, professoressa di Computer Science alla Sapienza di Roma. Allora, fatevi fare una piccola nota sul fatto, sul perché abbiamo invitato Paola Velardi. L'abbiamo invitata perché è una grande esperta innanzitutto, che abbiamo iniziato perché si occupa di queste cose. E abbiamo iniziato con lei perché si occupa esattamente di quello di cui vogliamo parlare, cioè i big data applicati a queste grandi masse di dati applicati al machine learning. Adesso spiegheremo che cos'è, ossia l'apprendimento da parte delle macchine. E poi ci fa particolarmente piacere averla perché sono molto rare le donne che si occupano di questi temi, sono troppo rare oggettivamente. E Paola Velardi fa parte di un gruppo di 100 donne, di 100 esperte, trovate anche il sito, che si mettono, per così dire, che si mettono in mostra, ci mettono la faccia per dire alle ragazze, beh, insomma, ragazze, le professioni scientifiche sono anche vostre e potete fare molto e ci sono delle opportunità, ci sono anche delle di grandi lavoro. Opportunità sì, di sì. Lavoro. Professoressa Velardi, allora iniziamo da qua. Si diceva quantità dei dati e qualità dei dati. Quello su cui si sta lavorando adesso fondamentalmente è esattamente questo, cioè cercare degli algoritmi che sappiano discernere nella maniera migliore quali dati prendere, come utilizzarli e soprattutto, professoressa, per farne cosa. Guardi, insomma, lei citava prima diverse applicazioni, adesso non tutte queste si possono chiamare come applicazioni di big data, alcune sono big data, altre sono di intelligenza artificiale, quindi forse un pochino è il caso che io definisca che cosa intendiamo quando parliamo di applicazioni di big data. Allora, l'ingrediente numero uno di big data è appunto big, i dati devono essere tanti. E quindi in pratica si riferisce alla capacità di poter integrare grandi quantità di dati e l'altro elemento è che questi dati debbano essere molto diversi fra di loro, quindi provenienti da sorgenti diverse, per esempio i dati dei social network, le transazioni commerciali, i dati sanitari, i dati ambientali. Tutti questi dati collettivamente vengono analizzati mediante degli algoritmi, come diceva lei, che sono algoritmi per esempio di machine learning, ma non solo. E per farne che? Allora, due categorie di applicazioni. La prima è così, possiamo dirla come descrittiva, per esempio un'azienda oppure un ente pubblico, anche un professionista, può conoscere meglio chi sono i propri utenti, cioè i clienti oppure i pazienti oppure gli elettori o anche i lettori se il professionista è un giornalista, ci sono anche molte applicazioni proprio per i giornalisti, o imparare meglio i propri processi di business. La seconda capacità di questi big data sono predittive, cioè i dati diventano come una specie di sfera di cristallo per leggere nel futuro sulla base di quello che è successo nel passato. Per esempio si può prevedere il successo di un nuovo prodotto, l'effetto di un medicinale o i flussi di turisti in una località e quindi prendere provvedimenti o anche i rischi che possono esserci in un certo territorio. Qual è la relazione tra l'intelligenza artificiale di cui si parla tanto e della capacità delle macchine di imparare e questi dati che sono sempre di più e hanno fonti le più disparate negli ultimi anni, le conosciamo perché anche noi stessi siamo produttori di dati. Certo, guardi, come dicevo, il primo ingrediente dei big data è appunto il volume, la grande quantità di dati. Come lei citava prima, negli ultimi anni sono stati prodotti più dati che nell'intera storia del genere umano, però di questi dati noi dobbiamo anche essere capaci di farne qualche cosa. Allora, gli altri due ingredienti che compongono i big data e le applicazioni di big data sono la potenza di calcolo, cioè gli elaboratori sono diventati sempre più potenti e sempre più veloci, quindi sono in grado di elaborare questi grandi dati in un tempo che sia sufficientemente piccolo per poter dare delle risposte utili. E il terzo ingrediente è proprio l'intelligenza artificiale, cioè la capacità degli informatici di scrivere degli algoritmi che trovino delle regolarità e delle similitudini in questi dati, un po' proprio come noi umani, che ragioniamo sostanzialmente per analogia e per astrazione, così fanno gli algoritmi cosiddetti di machine learning. Però vorrei dire che c'è anche un altro elemento molto importante, perché il merito dei progressi dei big data non è solamente degli informatici, perché esiste una, proprio perché questi dati sono diversi e quindi devono essere possono essere interpretati solo con l'aiuto di diverse capacità. Un altro elemento è proprio l'interdisciplinarietà, quindi ai big data collaborano tipicamente anche esperti di economia, di sociologhi, statistici, ovviamente matematici, fisici, medici, e grazie a tutti questi elementi noi siamo anche capaci di analizzare questi dati, perché la quantità di per sé non basterebbe. Quindi potrei dire che ci sono tre V che caratterizzano i big data: uno è il volume dei dati, poi la varietà, quindi il fatto che questi dati sono eterogenei, provengono da parti diverse e consentono di fare delle connessioni che uno non si aspetterebbe, e il terzo è la velocità di analisi. Allora, professoressa, le chiedo di rimanere con noi, abbiamo una breve pausa, però prima di andare alla pausa voglio salutare il professor Marcello Pelillo, che insegna informatica all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è un esperto di visione artificiale e oltre che di intelligenza artificiale. Professor Pelillo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, una pausa e poi veniamo anche da lei. Vicky, intelligenza interattiva virtuale. Buongiorno. Vicky ha progettato quasi tutti i sistemi di sicurezza di Chicago. Ho già ridotto gli incidenti stradali mortali del 9% quest'anno. Brava. Codice sorgente. Bentornati, questo è il nuovo programma di Radio 24 in questa estate. 5 puntate per capire come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Simone Spezia. Stiamo facendo tante domande, cercheremo di avere risposte in queste 5 puntate. Il professor Marcello Pelillo, dicevamo, insegna intelligenza artificiale, insegna informatica, è esperto di visione artificiale. Professor Pelillo, le faccio subito una domanda molto importante perché riguarda tutti noi, non solo gli esperti. Lei è un po' preoccupato dalla possibilità che le macchine gradualmente, ma velocemente, ci rubino posti di lavoro? Sicuramente è un rischio che si verifica tutte le volte che la tecnologia produce qualcosa di nuovo, è accaduto varie volte in passato e sicuramente in un ambito temporale non troppo lontano qualcosa del genere può sicuramente succedere. Bisogna anche dire che ultimamente si sentono anche voci un po' più catastrofiste, diciamo. Non solo l'intelligenza artificiale per sé è un pericolo per la perdita di posti di lavoro, eccetera, ma anche addirittura ci sono importanti voci, penso per esempio al fisico Stephen Hawking o a Bill Gates, Elon Musk, che addirittura predicono uno scenario abbastanza inquietante, secondo cui l'intelligenza artificiale distruggerà gli esseri umani. Ecco, di fronte a questi scenari un po' catastrofisti io sono tipicamente abbastanza scettico, perché nella breve anche storia dell'intelligenza artificiale, in realtà l'intelligenza artificiale nasce intorno agli anni 50, quindi è una disciplina molto giovane, ci sono state molte volte delle previsioni che puntualmente sono state, diciamo così, non rispettate in maniera così importante come era stato fatto. Già negli anni 50 anche grandi personaggi, per esempio come Alan Turing, forse il grande pubblico conosce Turing per il film The Imitation Game, è stato uno dei padri dell'intelligenza artificiale, aveva previsto che nell'arco dei prossimi 50 anni l'intelligenza artificiale avrebbe fatto cose spettacolari che poi di fatto non si sono verificate. Sì, devo dire che ultimamente però i catastrofisti e le persone che pensano che ci sia un vero pericolo stanno crescendo, non solo tra i giornalisti o pseudo esperti, ma tra i veri esperti. Ci sono molti scienziati che hanno raccolto firme per sollecitare i governi a occuparsi del tema. Poi ovviamente è difficile prevedere il futuro. Questo sicuramente è vero. Diciamo che le questioni che pone l'intelligenza artificiale sono sicuramente nuove. Immagino per esempio le questioni etiche. Ormai l'intelligenza artificiale domina, anche se non lo sappiamo, se non ne siamo consapevoli, domina la nostra vita. Le questioni etiche che si pongono quando abbiamo di fronte degli scenari in cui ci sono delle macchine che prendono delle decisioni per noi, sicuramente sono molto importanti. Quindi senza dubbio è fondamentale che i governi e le società in generale si interroghino sulle questioni legali, etiche che sono legate alla diffusione così pervasiva dell'intelligenza artificiale. Diciamo sul catastrofismo a cui mi stavo riferendo prima, in realtà lì sono francamente scettico, perché lì si parla di una situazione in un futuro non ben definito dove le intelligenze artificiali addirittura porteranno alla distruzione del genere umano. Ecco, qua lì sono un po' scettico. Sì, là, quello, il brano che abbiamo sentito prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, prima di andare a sentire il traffico, era esattamente un brano da Io Robot, che è un film che erroneamente viene attribuito a un libro di Asimov. Non c'è mai c'è solamente il titolo in realtà, perché non è relativo a nessun romanzo di Asimov. È un film nel quale esattamente succede, senza fare un eccessivo spoiler, che un'intelligenza artificiale prende il controllo di tutto, un po' come in Terminator. Ovviamente ci sono anche queste visioni catastrofiste che noi prendiamo dai film, dai libri, e che si riflettono inevitabilmente su quello che può essere il sentire comune, così come i timori che riguardano la nostra intelligenza. Cioè, nel momento nel quale ho Shazam, che fa sì che io non abbia più bisogno, lo si citava prima, di ricordarmi qual è il titolo di una canzone, perché mi basta fischiettare il motivetto per ricordarmela, che cosa succede al mio cervello, come cambia il mio cervello, la mia capacità di ricordare. Però insomma, alcuni pensano che stiamo diventando più stupidi, altri pensano invece che liberiamo spazi del cervello utili a fare cose più intelligenti che ricordarci i numeri di telefono. Veniamo, sì, al cuore del lavoro del professor Pelillo. Esatto, lei si occupa di visione artificiale. Mi sembra di capire che questo è un segmento, un settore dove si stanno investendo un sacco di soldi. Allora, per farci che cosa, ci faccia anche degli esempi di cose che oggi le macchine fanno a proposito di visione, della capacità di vedere. Certo. Che la visione artificiale e in generale la capacità delle macchine di percepire si è dimostrato subito un problema formidabile, è molto più difficile per esempio di problemi ritenuti classicamente difficili come giocare a scacchi, eccetera. E questo forse accade perché noi esseri umani, quando apriamo gli occhi e vediamo il mondo intorno a noi, lo facciamo senza sforzo e ci sembra, come dire, tutto molto molto semplice, e per tanti anni, soprattutto negli anni 60, negli anni 70, si pensava che il problema della visione artificiale fosse un problema semplice, e così non è stato, e di fatto siamo ancora molto lontani da realizzare delle macchine che possano vedere come, non so, un bambino di pochi anni. Attualmente però è innegabile che rispetto a ciò che si riusciva a fare appena pochi anni fa, abbiamo sistemi che noi utilizziamo per esempio tutti i giorni, che di fatto usano tecniche di intelligenza artificiale, di visione artificiale, che diciamo noi nel settore abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni. Faccio alcuni esempi abbastanza semplici. Quando prendiamo il nostro cellulare e vogliamo scattare una fotografia, per esempio, spesso appare intorno ai volti un rettangolino verde che appunto ci dice che lì dentro c'è un volto. Questo del riconoscimento di volti è stato uno dei problemi più importanti che noi che ci occupiamo di computer vision abbiamo affrontato negli ultimi decenni. Diciamo, ciò che manca per raggiungere la potenza, chiamiamola così, del sistema visivo degli esseri umani è una sorta di varietà di situazioni possibili, cioè siamo in grado di risolvere bene problemi molto specifici come il riconoscimento di volti, piuttosto che di auto, piuttosto che, non so, di targhe, eccetera. Siamo meno bravi a riconoscere gli oggetti in generale e in situazioni anche molto molto molto complesse, e questa sicuramente sarà la sfida che noi dovremo affrontare nei prossimi anni. Sì, c'è una discreta probabilità che questa sfida, almeno speriamo per il vostro lavoro, professore, venga risolto abbastanza rapidamente. Io ricordo sempre che solamente 7-8 anni fa usciva un libro che si intitolava La nuova divisione del lavoro, firmato da due economisti dell'MIT, nel quale si diceva che un'attività nella quale l'uomo non avrebbe mai potuto essere sostituito era la guida di un'auto. Sono passati 8 anni, 10 anni più o meno da quel libro, e a questo punto siamo sostanzialmente con delle macchine che si guidano da solo, da molto sole, quindi vicini, ci molto siamo vicini, sì, molto, sì. molto vicini. Le proiezioni almeno delle società internazionali, non solamente sì, quelle sì, che ci lavorano, no, ma quelle che se ne occupano, sono molto molto forti. Tra l'altro sì, io posso dire agli ascoltatori, se volete fare la prova, anche qui vicino in Svizzera c'è la città di Sion, dove c'è un pullman automata, guida autonoma. Quindi se uno vuole fare la prova, perché effettivamente se poi uno prova dice ah, allora quello che raccontano alla radio, scrivono sui giornali, sì, non è completamente falso, uno va lì e fa la prova. Anche qua a Milano c'è la metro Lilla, ma quella va sui binari. Va sui binari, esatto. È un po' più facile. Un po' no, più quello facile. È proprio un pulmino nella città. Vorrei tornare alla professoressa Velardi, però prima sentendo questo passaggio. Ora eseguirò uno scan. Scan completato. Hai una lieve abrasione epidermica sul tuo avambraccio. Suggerirei l'uso di uno spray disinfettante. Wow, wow, wow. E c'è esattamente nello spray? Il principio attivo è la bacitracina. Peccato, sono allergico a quella. Non sei allergico alla bacitracina. Hai una leggera allergia alle arachidi. Niente male. E questo era un film che si chiamava Big Hero 6, un film per bambini, un cartone animato nel quale veniva realizzato questo robot, che in realtà era un robot morbido ed era un robot medico sostanzialmente. Io con la professoressa Velardi vorrei capire proprio questo. Con lei abbiamo fatto un discorso molto generale, col professor Perillo siamo andati un po' nel dettaglio su quelle che sono le applicazioni per quanto riguarda la visione artificiale. Il machine learning può essere molto importante, soprattutto, non solo, però soprattutto in ambito medico, professoressa? Assolutamente sì, guardi, anzi, se devo dirle, ci sono diverse applicazioni dei big data e dell'intelligenza artificiale. Alcune di queste sono un po' preoccupanti, no? Perché sono, diciamo, immagino una società che sia continuamente spiata in quello che fa, e ci sono altre applicazioni che sono proprio quelle della salute, per esempio, o anche quelle della sicurezza, che invece sono le applicazioni che sono le più promettenti, perché hanno una prospettiva certamente di miglioramento per l'uomo su aspetti che sono, io anzi credo, guardi, che la salute pubblica sia una delle cose che diciamo sarà probabilmente una delle innovazioni principali del futuro. Se vuole, le innovazioni in medicina sono rimaste un pochino indietro, per esempio, rispetto alla tecnologia, e credo che adesso la tecnologia, ovviamente con l'aiuto dei medici, riuscirà a spingere la medicina verso paradigmi che sono completamente diversi rispetto a quelli attuali. Allora, professoressa, le posso chiedere una cosa, perché qua c'è sempre il dubbio, no, del quello che ponevamo prima, e che poi approfondiremo, lo dico già agli ascoltatori, con un economista col quale parleremo esattamente di quali sono le varie teorie dal punto di vista della fine del lavoro per quanto riguarda la sostituzione da parte delle macchine. Il punto è questo: lei ha detto le macchine, gli algoritmi con il supporto dei medici. È vero dall'altra parte che mi chiedo questo: nel momento nel quale io posso farmi fare la diagnosi da una macchina che è in grado di analizzare decine di migliaia di cartelle cliniche, se non milioni di cartelle cliniche, di persone che hanno i miei stessi identici sintomi, ma che bisogno ho di un medico? Beh, guardi, in realtà questi sistemi qui si chiamano anche sistemi di supporto alle decisioni, e la parola supporto è molto importante. Un tempo un medico aveva come supporto i libri di medicina e quel poco di casistica che era, nelle sue personali conoscenze, o quelle dei medici o dell'ospedale presso il quale lavorava. Il fatto che adesso i medici abbiano a disposizione Guardi, non soltanto le cartelle cliniche di migliaia e migliaia di pazienti, ma anche i risultati di tanti esperimenti scientifici che sono stati fatti in tanti laboratori, per esempio dati genetici, genomici, biochimici, cellulari, fisiologici, clinici, consentono di veramente rivoluzionare il modo con cui la medicina è stata concepita finora. Il modo tradizionale di curare i malati e di capire, diciamo, di sviluppare i vari farmaci è quello di mettere in correlazione, per esempio, uno specifico organo, che ne so, il fegato, e le malattie che lo riguardano. Invece in questo caso, utilizzando tutti questi dati ed integrandoli fra di loro, si possono coprire aspetti comuni e relazioni di causa effetto. Le faccio degli esempi. Per esempio, io posso scoprire che ci sono alcune malattie rare che dal punto di vista fisiologico e della manifestazione della malattia si comportano come delle malattie comuni. Che cosa vuol dire questo? Che io posso utilizzare dei farmaci che sono utilizzati per la cura di altre malattie e che sono magari meno costosi, perché uno dei problemi con le malattie rare è che non si vogliono sviluppare farmaci perché non è economico. Quindi immagini anche solo quale possa essere l'aspetto positivo di tutto questo. Quindi è una visione della medicina che è completamente diversa. Non capisco perché uno si debba preoccupare che questo possa, questo possa sostituire il nostro medico di casa, e non invece pensare che possa dare una molto maggiore potenzialità alla medicina e anche ai singoli medici, incluso quello di casa. Questo il punto per quanto riguarda appunto la medicina e anche la sua idea. Noi vorremmo anche chiedere se è preoccupata, però ci prendiamo ancora una pausa, poi torniamo con lei, torniamo col professor Perillo, per il quale abbiamo un'altra domanda, e appunto vorremmo una sua risposta a questo, e poi andremo a sentire anche l'economista che cosa ha da dirci. C'è sempre stato uno spirito nelle macchine, segmenti casuali di codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta, creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un'anima. Perché quando alcuni robot sono lasciati al buio, cercano la luce? Perché i robot immagazzinati in uno spazio vuoto si cercano fra loro piuttosto che restare soli? Come spieghiamo questo comportamento? Segmenti casuali di codice? O è qualcosa di... Codice sorgente. Riprendiamo questa che è la prima puntata di Codice sorgente. Ricordiamo, andiamo in onda il sabato alle 16, domenica alle 10, e ovviamente Sava Sandie si dice, c'è anche la versione podcast che vi consigliamo di mettere nel vostro archivio personale. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo, è sempre in linea con la professoressa Velardi e il professor Perillo, che tra un attimo ci deve lasciare, ma insomma lo saluteremo tra un attimo perché abbiamo ancora bisogno di lui. Ma prima, con la professoressa Velardi eravamo rimasti in sospeso, domanda che abbiamo rivolto anche al professor Perillo, che insegna, ricordiamo, informatica all'Università Ca' Foscari di Venezia, mentre invece Paola Velardi insegna computer science all'Università della Sapienza di Roma. Professoressa Velardi, se lei è preoccupata dal lato rischio per i posti di lavoro, più una preoccupazione personale, perché è chiaro che non è esattamente il suo campo, però se si è fatta un'idea di tutto questo, se è un po' tra i catastrofisti o è nel mezzo. No, ma io non sono né catastrofista né nel mezzo. Io penso che i progressi della scienza, è una cosa probabilmente banale che dico, ma vanno governati. Di per sé non sono né buoni né cattivi, è importante che siano governati e uno ne capisca le conseguenze. Per quanto riguarda i posti di lavoro, se lei pensa, quasi la metà dei posti di lavoro, dei tipi di lavori che esistono adesso, sono nuovi, cioè sono tipi di lavori che erano inimmaginabili anche solo 10 anni fa. Quindi di per sé è vero che spariscono certe professioni, altre professioni vengono facilitate, e altre ancora ne nascono. Quindi l'importante è governare il processo. Di per sé, per esempio, i big data possono presupporre una specie di grande fratello gigante che ci spia e che ci controlla, oppure può essere qualche cosa che ci facilita per tutta una serie di altri aspetti. Ci deve essere una governance che controlla le applicazioni e quelle che possono, gli effetti che possono essere sul sociale e sull'organizzazione della vita degli individui. Allora, grazie professoressa Velardi, grazie anche per la sua opinione. Io devo dire che condivido molto quello che dice la professoressa Velardi, cioè l'idea secondo la quale semplicemente i processi vanno governati, insomma, no? Non è tanto una questione di tecnologia che arriva e distrugge posti di lavoro, quanto una questione di governare il processo nella maniera corretta. Enrico. Sì, io invece sono un po', non dico catastrofista, però preoccupato, sì, perché un po' in tutto il mondo questi processi faticano ad essere governati, anche nei paesi più abili nella governance, e poi anche perché molte delle professioni che scompariranno sono professioni popolate da milioni di persone. Ad esempio, una delle cose più semplici da comprendere è la guida autonoma, e visto che è inevitabile che accada, poi è ovvio che anche quella va regolamentata e ci dovranno essere delle nuove regole, però se guardiamo i posti di lavoro nel mondo dell'autotrasporto, ad esempio, parliamo di milioni di posti di lavoro. Professor Pelillo, a proposito della capacità dei computer, delle macchine di vedere, una delle applicazioni sulle quali tantissimi centri di ricerca nel mondo stanno lavorando è appunto la guida autonoma. Penso anche, se guardiamo a Industria 4.0, alla logistica o a tutta una serie di produzioni che richiedono che le macchine vedano quello che stanno facendo. Quali sono i settori più interessanti dove vengono investiti soldi per fare ricerca in tutto il mondo? Ha citato una delle applicazioni più importanti, dove, appunto, si diceva prima, arriva una grande quantità di soldi e di fondi da parte di aziende molto grandi, e quindi molti dei problemi di computer vision che attualmente stiamo studiando sono direttamente legati a queste questioni. Diciamo che non è sicuramente l'unico campo applicativo, per esempio il discorso della videosorveglianza, le applicazioni in ambito di videosorveglianza o di biometria, che sono sicuramente all'ordine del giorno visto quello che sta succedendo nel mondo, e avere sistemi di videosorveglianza sempre più sofisticati e sempre più potenti sicuramente può aiutare a prevenire situazioni che sono legate, per esempio, al terrorismo o alla criminalità in generale. È chiaro, come si diceva prima, che poi si porranno altre questioni relative alla privacy, alla sicurezza, eccetera, eccetera, e però, come dicevamo anche prima con Paola Velardi, con cui concordo al 100%, riguardo alla necessità di governare questi processi di innovazione tecnologica e soprattutto di coglierne le opportunità, diciamo, buone, quelle positive che offrono. E sicuramente la videosorveglianza, l'analisi di video, la biometria sono altri campi applicativi dove da tempo ci sono investimenti anche molto importanti, però devo dire che quella della guida autonoma sicuramente sta occupando uno spazio molto molto ampio, anche in virtù dei finanziamenti enormi che stanno arrivando da grosse aziende. Sì, quando parla di videosorveglianza parla anche di riconoscimento facciale? Beh, sicuramente sì, anche quello. Sì. Certo. Ecco, a proposito di riconoscimento facciale, sappiamo che ci sono in giro per il mondo già alcuni sistemi attivi su grandi città. Dal suo punto di vista, lei che è esperto di questo settore, funzionano bene oggi o hanno ancora qualche buco e non sempre poi le facce vengono riconosciute come ci viene detto? Diciamo che funzionano molto bene, soprattutto se confrontiamo a quello che facevano questi sistemi un po' di anni fa. Ora, a differenza di tanti anni fa, abbiamo una potenza di calcolo molto più ampia, molto più grande. Abbiamo appunto il big data, abbiamo degli algoritmi di apprendimento molto potenti. Chiaramente in situazioni limiti in cui il volto è coperto da una sciarpa, occhiali, cappello, eccetera, il riconoscimento del volto diventa molto più complicato, ma ci sono anche altri fattori che contribuiscono al riconoscimento di una singola persona, come il modo in cui cammina, ovviamente il suo come è vestito ed altri fattori che noi chiamiamo biometrici. E diciamo che allo stato attuale siamo molto molto avanti, sicuramente c'è molto da fare e siamo un po' in quella situazione di cui parlavo prima, cioè nei prossimi anni sicuramente vedremo uno sviluppo dei sistemi di visione artificiale dove le condizioni al contorno saranno più flessibili e ci sarà una maggiore generalità di applicazione, un po' come facciamo noi quando vediamo. Noi riusciamo a riconoscere un volto anche se è in penombra o se è parzialmente occluso, se ha la barba, se ha gli occhiali, eccetera. Diciamo che in futuro la grande sfida sarà senz'altro quella. Professore, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro o buone vacanze, grazie visto il periodo. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Adesso ci fermiamo, grazie anche al professor Pelillo. Ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi finalmente la grande domanda. Perderemo il lavoro a causa delle macchine oppure no? Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Codice sorgente. Senta, io non me ne intendo, ma ho un'idea per una delle vostre pubblicità. Si potrebbe mostrare un falegname che fabbrica una bella sedia. E poi uno dei vostri robot arriva e fa una sedia migliore in metà del tempo. E mettete una grande scritta sullo schermo. USR, l'uomo medio fa cagare. Ah. E qui c'è una dissolvenza. Sì, immagino che suo padre abbia perso il lavoro per colpa di un robot. Forse lei avrebbe proibito internet per tenere aperte le biblioteche. Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Vi ricordo che nelle prossime puntate sforeremo nel mese di settembre 5 puntate tra agosto e settembre, sabato ore 16, domenica alle 10. Parleremo anche di cyber warfare, la guerra digitale, di privacy, non solo di intelligenza artificiale, ma di tutto quello che sta accadendo attorno a noi dal punto di vista della tecnologia e di come questo sta disegnando il nostro futuro. Sì, parleremo per esempio anche dei dati. Dei dati ne abbiamo parlato all'inizio, queste grandi masse di dati. Ma di chi sono queste grandi masse di dati? Sono in realtà nelle mani di poche aziende. E questo è un grande tema che riguarda anche la legislazione antitrust. Ci arriveremo. C'è anche chi propone che noi si faccia pagare per quando forniamo i dati, per esempio ai social network, o ci scriviamo cose di questo genere. Ma veniamo appunto al tema del lavoro, al tema della sostituzione. Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt. Seghezzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, lo stato del dibattito, per così dire, scientifico, se possiamo parlare di economia per quanto riguarda, se possiamo parlare di scienza per quanto riguarda l'economia, qual è? Perché abbiamo parlato di catastrofisti, abbiamo parlato invece di ultra ottimisti sull'impatto che avrà la tecnologia sul mercato del lavoro, e probabilmente ci saranno anche delle posizioni di mezzo e magari anche un filino più equilibrate. Sì, scientifiche. Sì, il dibattito è molto complesso, è complesso il tema, soprattutto quando bisogna fare delle previsioni rispetto a un futuro che non conosciamo. E rispetto alla complessità sono diversi filoni, perché da un lato si riconosce attraverso analisi molto precise e specifiche, soprattutto sugli Stati Uniti, come la tecnologia sta in qualche modo eliminando alcuni lavori, ma dall'altro si assiste anche al fatto che si stanno eliminando alcuni lavori, ma non è detto che l'unica ragione sia quella della tecnologia. Infatti noi abbiamo avuto un boom della tecnologia in uno stesso periodo in cui, dal punto di vista internazionale, ci sono state molte rivoluzioni, la globalizzazione, l'ingresso della Cina nel WTO, eccetera. Per cui è molto complicato oggi capire se il lavoro che si è perso, soprattutto nella manifattura, si è perso a causa della tecnologia o meno. E secondo dato, dire la frase che oggi gli iperottimisti cercano di negare, ossia la frase "la tecnologia distrugge il lavoro", è una frase assolutamente vera. Il problema è con che tasso di sostituzione, con quale velocità, se si crea lavoro nuovo. Quindi siamo da una parte da chi dice che la tecnologia non distrugge il lavoro, cosa assolutamente falsa, basterebbe parlare con qualsiasi agricoltore del 1700 se fosse ancora con noi, e dall'altro chi dice che la tecnologia invece in sé distrugge il lavoro e basta, non ne genera di nuovo. anche questo bisognerebbe parlare con tutti quei lavoratori che negli Stati Uniti sono passati dalla manifattura ai servizi negli ultimi 20 anni. Sì, sì, basta anche in Italia. Noi siamo nella sede del Sole 24 Ore, che è un luogo di eventi. Ogni tanto durante l'anno ci sono degli eventi su temi digitali, che ne so, pubblicità digitale, pieni di gente che magari 10 anni non esistevano. Molti di questi hanno anche difficoltà a dirti che cosa fanno. Cioè quando dici, ma tu che lavoro fai? Questo è verissimo, è verissimo. Però diciamo, se ci spostiamo in avanti con una prospettiva di 5, 7, 10, 15 anni, ci sono molti anche esperti, scienziati, che sono preoccupati perché le macchine diventeranno capaci di fare pressoché tutto, anche cose molto creative, che quindi entrano in un campo tipicamente dell'uomo. Per essere più diretti, Seghezzi, l'idea è che questa rivoluzione tecnologica rispetto a quella con la quale i telai meccanici sostituirono la filatura a mano, questa rivoluzione tecnologica sia molto più potente e diversa dalle altre, no? Qualche rischio si intravede da questo punto di vista. E soprattutto, se posso aggiungere, poi lasciamo la parola a Seghezzi, una delle cose che alcuni dicono è che è vero, possiamo creare nuovi lavori, ma visto che la tecnologia è così veloce, noi facciamo fatica ad essere veloci nel creare nuovi lavori. Questo è uno dei problemi. Seghezzi, prego. Assolutamente. E infatti, appunto, il problema è la sostituzione. Il secondo problema è che l'intelligenza artificiale è una tipologia di tecnologia molto diversa da quella precedente. Quella precedente, più delle grandi sostituzioni che ci sono state, era una sostituzione di tipo fisico, ossia laddove la forza fisica poteva essere sostituita da elementi meccanici. Oggi invece c'è la possibilità, poi magari non oggi, ma in previsione tra qualche anno, di sostituire anche lavori di tipo intellettuale. Da questo punto di vista gli studi ci dicono che ci sono tanti fattori a cui guardare, ossia il primo di tutti, che in pochi considerano, è che non è detto che se una tecnologia può sostituire il lavoro, allora le preferenze delle imprese vadano per forza verso questa tecnologia. Ci sono tanti criteri da tenere in mente. Primi costi, che oggi su tantissimi fronti sono e restano proibitivi. Penso a tutto il mondo dei robot umanoidi di cui tanto si parla. Oggi, se parliamo con chi lavora in studio italiano di tecnologia, che studia queste tematiche e fa esperienza nel campo, dicono che il robot umanoide che sostituirà il cameriere o la badante oggi ha dei costi che per almeno per i prossimi 20-30 anni sono molto distanti dal poter garantire una diffusione di massa. Dall'altro c'è un dato sociale che tante volte negli imprenditori fa sì che magari aspettano il pensionamento di alcuni lavoratori per poter sostituire alcuni processi, eccetera. Quindi a fronte della possibilità di sostituzione di molti lavori, quindi di un rischio assolutamente presente nel lungo ma anche nel breve termine, ci sono tutta una serie di fattori che nell'economia rientrano, sia i fattori di economia comportamentale relativi alle preferenze delle imprese, che comunque sono da tenere in mente per, diciamo, complicare un po' lo scenario. L'impressione è che lo scenario si complica, però mi sembra di aver capito che la tendenza comunque sia quella. I segnali che abbiamo ricevuto e anche gli studi, come lei diceva, fatti negli Stati Uniti, testimoniano che un pezzo della compressione della classe media, per così dire, è dovuto esattamente a processi di questo genere. Dall'altra parte, a questo punto abbiamo un problema, che è un enorme, mi sembra di capire, problema di formazione. Cioè nel momento nel quale creo dei nuovi posti di gente che si deve avere delle relazioni, per così dire, con le macchine, devo avere di qualsiasi tipo di creazione, di progettazione o anche solo di collaborazione con la macchina, a quel punto devo avere della gente estremamente formata, molto più formata di quanto non siano i lavoratori oggi, Seghezzi. Esatto, e infatti qui emerge tutto il problema della transizione, ossia è possibile riqualificare oggi, penso soprattutto alla manifattura in cui l'impatto sarà molto forte rispetto all'attuale, ossia ci sarà un'evoluzione del lavoro attuale verso un lavoro molto più digitalizzato. È possibile oggi pensare realisticamente, non a livello soltanto astratto, di riqualificare tutti i lavoratori che magari in larga parte non hanno mai fatto neanche un corso base di informatica e oggi dovrebbero in qualche modo affrontare procedure informatiche molto complesse? Questa è una domanda, dal mio punto di vista la risposta è abbastanza negativa, per cui bisognerà gestire la transizione in un modo, diciamo, eccezionale, non in un modo ordinario, perché la riqualificazione di certi soggetti sarà veramente complessa, se non, diciamocelo, impossibile. Sì. Allo stesso modo, però, va bene la gestione complessa della riqualificazione, però è necessario che chi si immetta nel mercato del lavoro abbia questo tipo di competenza, se no l'eccezionale diventa ordinario e potete immaginare cosa questo comporti. E qui nasce un'altra domanda che lascio aperta perché non sono in grado di rispondere, ossia se tutti i lavoratori hanno le capacità strutturali di poter apprendere determinati processi. Questa è un'altra domanda. Certo. Chiunque può apprendere processi digitali complessi che diventeranno la nuova classe media delle fabbriche? Io non so dare una risposta, ma diciamo che non sono al 100% ottimista. Ci sono livelli di capacità diversi tra le persone e questo potrebbe portare a uno scenario, secondo me, molto realistico e molto rischioso, una polarizzazione molto forte che diventa quasi una specie di selezione naturale a quale, sì, bisogna prestare attenzione. Sì, sì, sì. Faccio una provocazione. Cito un libro di 3 anni fa, Humans Need Not Apply, che tradotto è: gli umani non devono fare più domanda di lavoro, non vi preoccupate perché non ci saranno più posti di lavoro. Ovviamente, come molti titoli di libri, sono molto forti. C'è un altro libro che recentemente ho letto che si chiama The Inevitable, l'inevitabile, quindi ti mette un po' di terrore. Allora, in questo libro Jerry Kaplan, che è stato un imprenditore, è un visionario, ha scritto un po' di libri su questi temi, dice: di fronte alla tecnologia che diventa sempre più capace di sostituire il lavoro dell'uomo, dobbiamo trovare un modo per lasciare invariata la capacità di spesa degli umani. Se non ho un lavoro non ho capacità di spesa e quindi non c'è più il mercato, allora devo trovare un sistema. Allora, la sua proposta è che automaticamente, poi bisogna trovare anche il modo per farlo, tutti diventino azionisti di queste grandi aziende completamente automatizzate e in cambio di lavori semplici, utili, cioè vado ad accompagnare i bambini al parco, cose del genere, oppure gli anziani, eccetera, io riceva il dividendo di queste grandi aziende. Quindi sostanzialmente non faccio quasi più nulla, ma è un modo per finanziare questa è la sua proposta. Seghezzi, esistono dei ragionamenti tra gli esperti? Sì, esiste il ragionamento che poi è ragionamento, diciamo, puro sul reddito di cittadinanza, sì, però quello vero, quindi universal basic income, che è generalizzato, incondizionato e in certi modelli finanziato proprio dai dividendi di quelle grandi compagnie che fanno dei margini molto elevati occupando poche persone. Qui il tema è a diversi livelli di profondità. C'è un lato più etico-morale sul valore del lavoro, ossia sul collegamento tra il lavoro e la dimensione. Mi ha tolto quasi le parole di bocca, Seghezzi, perché questo è un tema. Cioè, ti eri preparato... Ti hai preparato il finale, Seghezzi ti ha rubato il finale. No, sì, è terribile, terribile. E l'altro aspetto che diceva? Sì. Nel senso, se il lavoro è solo reddito, se il lavoro è solo reddito, ci sono altre forme di reddito, non dato dal lavoro. Se invece il lavoro è qualcosa in più del reddito, allora è un problema politico. Certo, di garantire il lavoro anche in una situazione in cui potrebbe non esserci. Poi c'è tutto un altro problema di natura più politico-sociale, ossia che se ci fosse questo tipo di ridistribuzione dei redditi ci sarebbe un sostanziale livellamento e all'interno di un'economia di mercato questo creerebbe non pochi problemi, concentrerebbe la ricchezza ancora di più in pochi soggetti, poi ci sarebbe un livellamento generale, perché come si fa poi a distinguere tal salario che ha uno che porta un bambino al parco e chi porta il cane a fare il bagnetto? Diventa complicata la cosa. Quindi c'è un livellamento generale dei salari che si muove parallelamente a una deresponsabilizzazione sociale che il lavoro dà. Questo già Thomas Paine, quando parlava delle prime forme di reddito di cittadinanza, diceva questo, che c'è una dimensione di corresponsabilità sociale tra persone che lavorano per contribuire a una comunità che in qualche modo, non dico che salterebbe, però se tutto si riduce poi a una forma di retribuzione di attività di tipo... qualcosa simile al volontariato, non lo so. Cioè, sì. Praticamente sì. Il socialismo con un'oligarchia sopra e senza lavoro non è proprio uno scenario affascinante, devo dire la verità. Esatto, no, poi è vero, questo che ha appena detto Seghezzi è vero, cioè il lavoro non è solo reddito, ed è molto importante. Grazie a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, buona giornata e buon lavoro e grazie per averci accompagnato in questa parte. Fai tu i ringraziamenti, Enrico. Ringrazio Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, Laura Faggin che ci ha aiutato nell'ideazione e nella ricerca degli ospiti di questa prima puntata di Codice Sorgente. Torniamo la prossima settimana. Ci occupiamo di che cosa la prossima settimana? La settimana prossima andiamo ad occuparci di marketing, propaganda politica. Non sapete che roba stanno facendo negli Stati Uniti da questo punto di vista. Sfruttano i dati anche di singoli elettori, riescono ad andarti a pescare, a bussare alla tua porta e a dire: vota per questo candidato perché lui per il tuo territorio, per te che hai perso il lavoro e che hai 3 figli, può fare questo. Un po' preoccupante. Esatto. Ci risentiamo la prossima settimana.